poco finisce e inizia prove tecniche di trasmissione, quindi si torna in diretta alle 21.03. Qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, anche per oggi 10 gennaio del 2018. Il contatto telefonico è 0649 1750, sito internet per usare anche il nostro streaming è www.ondarossa.info. Per sottoscrivere per Radio Onda Rossa, che ne ha sempre assolutamente bisogno, il conto corrente postale è 61 80 40 01, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Vire Volci 56 00185, Roma. Nel sito stesso ci sono le modalità, diciamo, più elettroniche. ondarossa@ondarossa.info è l'indirizzo di posta elettronica. E infine, per chi volesse sentire le repliche e leggere le playlist di queste trasmissioni, di queste delle trasmissioni in passato, si va su prove tecniche di trasmissione /disorder. Cominciamo con il salutare Alessandra qui da Roma, come Like Awake, il buon Stefano di serie anche qui da Roma, e Gabriel Edvi da Londra, Anna degli Style Syndrome da Fabriano, Rodrigo Passananti sempre da Londra, Valerio della Grazia Obligua qui da Roma, la prima proposta viene dal Belgio, intanto salutiamo anche Antonella dalla Sicilia. Dicevo, i Pact Infernal, progetto proveniente dal Belgio con questo ottimo lavoro dal nome Infernality, un lavoro che si sviluppa su atmosfere dilatate, cupe, rarefatte, ma anche con degli squarci verso soluzioni più etniche. Ci ascoltiamo Death and Rebirth e Talismans da questo Infernality, Pact Infernal. We'll be right back. Ancora Pacto Infernal, salutiamo Enrico Cerrato alias Petrolio, progetto proveniente dal Piemonte da Asti, e anche Fulvio Piondo di Solar Lodge. Yeah. una delle novità più interessanti del 2017, questo Pact Infernal. Quattro lavori al loro attivo, questo è l'unico vero e proprio, diciamo, album, questo Infernality, e poi ce ne sono altri, The First e The Second Chapter, messi insieme in un CD, quando in realtà sono nati come EP su vinile 2 anni fa. Questo è un duo proveniente dal Belgio, la curiosità che nei vari punti di riferimento, i classici profili Facebook, Bandcamp, eccetera, le notizie sui loro nomi e sulle loro attività vanno e vengono. La scorsa settimana c'erano e oggi non c'è scritto più nulla, compresi i nomi, rimane un mistero. Mi ricordo comunque che erano due personaggi alquanto noti per quanto riguarda la musica elettronica, attraverso per esempio i Two Unlimited. Comunque erano belgi, un duo belga. Nel salutare Raffaele Pezzella, andiamo anche per questa sera a scandagliare Northern Lights, questo lungo tributo alla scena scandinava più sotterranea. Un tributo che questa sera passa attraverso per esempio ATG, che vede dentro anche un ascoltatore, un amico di questi spazi, che è Thomas Narverud, proveniente dalla Norvegia, insieme a Ovind Helner e Bert Vinnes. E di loro ci ascoltiamo questo Recycle Everything. Successivamente andremo poi a ascoltarci tal Jonathan Lingendal con una canzone che in realtà è una data, 16 luglio del 2004. Cominciamo con ATG. Ecco Thomas Lingedal. Il tutto sempre estratto da questo Northern Lies, The Scandinavian Experimental System Survey, in uno compendio che uscì nel 2016. Atmosfere qui più riconducibili ai ben più noti Coil. Jonathan Lingedal, da questo Northern Lights, le luci del nord, compilation che è uscita nel 2016 attraverso Anespress Sounds Group, portale di etichetta musicale fondata da Raffaele Pezzella, anch'esso musicista come sonologist. Un abbraccio anche a Giovanni Campagna da Copenaghen, e proprio di lui andiamo un po' a parlare attraverso T-Ranch, la sua idea che affianca Sound Dog 65, atmosfere IDM, ambient crepuscolari, nebulose anche per lui. Questa è una compilation da nome Break of Day, dal quale estraiamo Apparent Child per T-Ranch. the vague sense of being. Social equals data. Fill the void with expectations that forced identity of yours and the vague sense of being. Social equals data. Fill the void with expectations Godspeed. La voce robotica di Giovanni Campagna in questo T-Ranch, in questo Brick of Day, questa compilation che va a fare il punto della passata produzione sotto questa denominazione. Ci fa ricordare molte cose riconducibili per esempio alla Warp Music, cose tipo la Borzo Canada, tanto per citarne uno. Un po' ovettate queste atmosfere così malinconiche, sicuramente incisive però, nel senso positivo del termine. T-Ranch di Giovanni Campagna che salutiamo in quel di Copenaghen. Si rimane in Italia, Camerata Bellionalense, questo collettivo, questa piccola grande orchestra che si rifà alla tradizione medievale dei gruppi di ascolto. I salotti culturali dell'epoca di Toscana Memoria, ma qui chiaramente, dato che loro sono di Milano, prendono il nome della loro città. Ultimo lavoro, Le Vergini Folli, un lavoro splendido, uno dei migliori del 2017, che esce però per questa etichetta tedesca, Lauerbach Tontrager, diviso in due CD. Il secondo, dal quale estrarremo due tracce, propone dei remix e delle nuove versioni, ma anche un paio di inediti. Questa sera ci ascoltiamo Vergine Bella che di sol vestita e Notte di novelli sogni in questa versione strumentale. Oh. di Francesco Petrarca, questa Vergine Bella che dissol vestita di Camerade Mediolense. Salutiamo Alessandro Bellotta della Grazia Obliqua e anche il buon Luca che ci è raggiunto da Ostia. E questa invece è Notte di Novelli Sogni, una versione strumentale. Thank you. Le Vergini Folli di Camerata Media Una Lenze, come giustamente dice il buon Alessandro Bellotta, voci ed armonie senza tempo, bellezza pura. Ad essere fuori dal tempo è anche un pregio, una dimensione a parte, e loro ne sono capaci di creare queste dimensioni a parte. Un album che ha privilegiato la componente femminile del gruppo, questo pianoforte bellissimo di Elena Previdi e le altrettanti bellissime voci di Desiree Corapi, Carmen Donofrio e Chiara Rolando. La parte maschile rimane un po' sullo sfondo e interviene di tanto in tanto. Ventura 48, Onda Rossa 87.9, queste prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30, allorché poi ci sarà 25 o'clock. I toni più duri ed aspri appartengono a questo disco che si chiama Unitas, un split tra Chris Falliu e Kreschau, scena dunque ungherese tra neofolk e industrial. Questa è Sword of Our Thirsty Soul e poi Indivisibiliter Ac Inseparabiliter, due tracce per Chris Falliu e Kreschau. L'arcigna marzialità di questa collaborazione tutta ungherese, Chris Faliu, Crashao, in questo Unitas, un lavoro che uscì inizialmente addirittura in 27 copie in cassetta, ma che dopo è stato poi stampato su supporto digitale attraverso un'etichetta russa, la Ufa Muzak. L'Ungheria ha una tradizione, direi, buona per quanto riguarda questo tipo di sonorità. Da menzionare anche i vecchi Actus, che sono usciti qualche annetto prima rispetto a Chris Faliu e Crashao. Torniamo in Italia, lo facciamo con Emiliano Pietrini e il suo Globo Oscuro, una delle migliori espressioni della sperimentazione qui in Italia. C'è molto krautrock e molto Nars with Wound nelle note di Globo Oscuro, in questo Research, album del 2008. Sta per partire Technocratic Solutions for the Pax Cosmics e Chemical Democracy. Yeah.